Segue il suo piacere colui che si separa, dell'altrui parere egli si beffa. Lo stolto non ama aver la scienza, ma far mostra di avere intelligenza. Quando viene l'empietà, viene anche il disprezzo e con la turpitudine l'obbrobrio. Acque profonde son le parole che pronuncia l'uomo, torrente straripante è la fonte di saggezza. Favorire l'empio non è bene per ostacolare il giusto nel giudizio. Le labbra dello stolto portano alla lite e la sua bocca gli procura i colpi. La bocca dello stolto è la sua rovina, le sue labbra sono un laccio alla sua vita. Le parole del denigratore sono come bocconi deliziosi che scendono fino al fondo delle viscere. Chi si mostra negligente nel lavoro, costui è fratello di chi lo vuol distruggere. Una fortezza è il nome del Signore, a lui ricorre il giusto ed è al sicuro. La fortuna del ricco è la sua fortezza, un alto muro nella sua opinione. Prima della sua rovina si innalza il cuore dell'uomo, prima della gloria c'è l'umiliazione. Chi risponde prima di ascoltare è stoltezza per lui e confusione. Lo spirito dell'uomo sostiene la sua fragilità, lo spirito abbattuto, chi lo rialzerà? Un cuore intelligente acquista conoscenza e l'orecchio dei saggi cerca la scienza. Il dono dell'uomo tutto gli spalanca e alla presenza dei grandi lo conduce. Si dà ragione al primo in una lite, ma viene il suo avversario e lo contesta. La sorte mette fine alle contese e tra i potenti dà una decisione. Un fratello aiutato da un fratello è come una fortezza, gli amici come il catenaccio di un castello. Col lavoro della bocca si sazia lo stomaco dell'uomo, col frutto delle sue labbra si soddisfa. Morte e vita sono in potere della lingua, chi ne sa fare uso ne assaggerà il frutto. Chi ha trovato una sposa ha trovato un tesoro, ha ottenuto una grazia dal Signore. Il povero parla supplicando, il ricco invece risponde con durezza. Ci sono amici che mandano in rovina, ma c'è l'amico più caro di un fratello.